ancora di quel vecchio vino? Non so, Turiddu è andato a provvederne. C'è sempre qui, l'ho visto stamattina, vicino a casa mia. Come? Tacete! Io me ne vado, dite voi altre in chiesa.